Allora bene, 16 e 5 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono qui con una compagna di trasmissione che Adesso a mangiare gelato, sì, questo è il punto. Vabbè, io dai, la birretta, tu il gelato, dovevamo un attimo assestarci prima di affrontare insieme la prossima oretta e mezza. Non parlare con la bocca piena, no, che si vede tutto poi. Eccomi. Allora, che cosa è quest'oretta e mezza che vi stiamo proponendo? Intanto ha uno strumento, quello del telefono. Oltre alla radio dovete avere il telefono con voi. E c'è un numero, lo 06491750, che è un numero che penso sappiate a memoria, ma adesso ve lo ripeto anche al contrario: 06491750 è il numero della redazione di Radio Onda Rossa. Non provate a mandare vocali, perché non è quel tipo di numero, non si può fare. No, no, assolutamente non mandate vocali. L'idea è questa, di fare un confronto a microfoni aperti sul tema della paura, qualcosa che ovviamente è un sentimento che ci attraversa, penso, in tutta l'esistenza, ma in questi ultimi tempi è qualcosa con cui abbiamo dovuto avere a che fare, anche in maniera diversa. Dico diversa rispetto, che ne so, il contesto delle lotte. La paura di ammalarsi, la paura della morte, la paura che qualche persona cara si ammali, stia male e muoia, la paura di essere noi il vettore perché quella persona si ammali, è sicuramente qualcosa che nonostante le precauzioni di fronte a un'incognita, ovvero questo maledetto virus che, di cui si sa un bel po', ma non si sa tutto. Siamo stati sottoposti a delle misure di restrizione totale che di fronte a un sistema sanitario incapace di poter affrontare seriamente la situazione, probabilmente queste misure di restrizione erano l'unica modalità per arrestare il contagio di massa. E da pochi giorni sono cambiate le misure a cui siamo sottoposte e sottoposti. E devo dire che si è passati, io l'ho notato, poi forse ognuno ha la propria sensibilità, però dal terrore vero e proprio alla paura e via dicendo, a una riapertura un po' anche insensata, diciamo, come dire, riattraversare di punto in bianco luoghi affollati dove si deve esprimere una socialità oppressa per due mesi e mezzo, sono passaggi opposti, diciamo, quelli che sono avvenuti in tempi brevissimi. La questione della paura possiamo provarla ad affrontare non soltanto partendo dagli ultimi tempi, quindi chiediamo a tutte e tutti di contribuire un po' anche con un punto di vista più largo, premettendo che non, da parte nostra non c'è nessuno stigma nei confronti della paura, anzi siamo portatrici di questo sentimento, di questa emozione che determina fortemente poi le scelte quotidiane e spesso magari ti fa mangiare pure le mani per aver fatto qualche stupidaggine, dato che si pagano caro, care le stupidaggini di questi tempi. E quindi capiamo anche perché qualcuno in maniera ancora più forte magari delle nostre scelte individuali ha vissuto un periodo di chiusura e isolamento totale. Quindi non è nostra intenzione assolutamente affrontare così le cose, di fatto però prendiamo anche in considerazione non so, un 18 marzo che forse sembra un giorno lontanissimo, ma fu il giorno in cui, anzi fu la notte in cui a Bergamo un convoglio militare trasportò decine e decine di cadaveri con immagini che sono state mandate a rotella in mondovisione. E sicuramente questo ha un portato simbolico molto forte, ben diverso sarebbe accaduto. Io davvero non credo che quei mezzi erano necessari, credo che neanche quella parata fatta in quel modo, credo che la volontà sia stata ben diversa da parte dello Stato. E sicuramente la paura che ci ha accompagnato in questi tempi ha dato la possibilità a chi governa, anche nell'incapacità totale, però di fatto di scegliere su milioni di vite nel pianeta. Questo lo possiamo dire perché è avvenuto in contemporanea, sta avvenendo in contemporanea in diverse parti del mondo. Il nostro sguardo, tra l'altro, molto spesso è solo sull'Occidente, ed è impressionante che avvenga questo anche da queste parti, ecco. Però sicuramente, come dire, c'è da fare un ragionamento che forse a 2 mesi e mezzo e passa, quasi 3, anzi in alcune regioni possiamo dire più di 3 mesi, i discorsi che ci siamo fatti individualmente, abbiamo visto anche i social network, sono un luogo dove se ne è trattato, se ne è parlato. Sicuramente per quanto mi riguarda, la collettività in cui vivo è stata attraversata da questi discorsi in maniera intensa, ripetute volte, anche in base a dei momenti in cui ci si dimenticava della pandemia in corso e bisognava un attimo rinnovarsi, quali misure prendere collettivamente, che cos'è la faccenda del consenso. E poi tutta l'insiemistica delle relazioni coinvolte in questo, sì, in questo affare. Non so, di qualcosa. Sì. No, allora, innanzitutto volevo dire che in parte questo discorso l'abbiamo affrontato o piano piano avvicinato, non so, anche nella scorsa puntata, durante lo scambio, la conversazione con con il collettivo Senza Numero, con la compagna con cui abbiamo appunto parlato da questi microfoni. Quindi l'idea, no, di una fase di emergenza assolutamente inedita per le nostre esistenze, che ha sconvolto un po', no, il concetto di normalità, anche di salute, e che ha fatto molto leva sulle paure, sulla paura di morire, sulla paura rispetto alla propria sicurezza, alla propria salute. Però, diciamo, un altro degli elementi che in parte erano già emersi e che su cui, per esempio, io personalmente mi sono molto interrogata in questi mesi di pandemia. Allora, non rimetti bene il cavo un non pochetto. Mi devo muovere. No. Mi muovo troppo. Sì, sei agitata. Ah, sono va agitata. Bene. Ok. No, è diciamo la paura verso il prossimo, no? Quindi la paura che il prossimo da te possa rappresentare per la tua esistenza e per la tua salute e per la sicurezza tua e delle persone a te vicine un pericolo. E sicuramente in questa fase di pandemia è stata una sensazione che si è molto accentuata e che è stata molto alimentata dalla narrazione dei media rispetto alla pandemia, dagli appelli, no, a stare a casa, ma che sicuramente non è nata ora, cioè nel senso la paura verso il prossimo in quanto elemento che mette a repentaglio la tua esistenza e la tua sicurezza è una narrazione che è stata alimentata negli anni rispetto a una serie di soggetti che invadono, di soggetti che mettono in pericolo la nostra, tra virgolette, cultura, società, il nostro paese. Quindi non è assolutamente una narrazione inedita, è una narrazione che in questi mesi si è assolutamente accelerata e si è allargata, nel senso che la soglia della sicurezza non sono stati più i confini dello Stato, è diventata la soglia di casa, per cui il soggetto che mette in pericolo non è più la completa alterità da te, ma è, cioè completa nel senso per come viene percepita, ma è anche il tuo vicino di casa che si comporta in un modo differente da quello imposto che ci si aspetti. E quello che io mi chiedo è sicuramente che cosa rimarrà di tutto questo una volta passata la pandemia, cioè quali fenomeni sostanzialmente di disgregazione sociale, di diffidenza verso il prossimo, verso il diverso, verso chi vive ai margini, verso chi non si conforma diciamo anche a degli standard igienico-sanitari molto molto molto rigidi, molto ferrei, in che modo appunto, non so come dire, l'odio e la diffidenza si espanderà, e che lotte dovremmo mettere in campo per arginare questo fenomeno di diffidenza verso il differente da noi, che possiamo essere noi, che possono essere i gruppi ancora più marginali rispetto a noi in questa società. Allora, noi abbiamo già un primo contributo, ovvero un compagno che ha visto, insomma, su internet il nostro invito a partecipare, ha deciso di mandare un audio perché era impegnato poi nel momento della diretta. Quindi inauguriamo così questo momento di discussione, che speriamo partecipato, circolare. Poi se alla fine non è interessante, ben venga per voi tutte e tutti, ma noi siamo sfogate almeno. Bra. E allora vi lasciamo all'ascolto, sono un po' di minuti e partiamo così con queste riflessioni. Salve e un saluto a tutti e tutte. Volevo dare il mio piccolo contributo rispetto al tema della paura. Giusto due parole, mi sembra più che legittimo mettere sul tavolo appunto non solo le capacità che abbiamo per trasformare il mondo, per combattere lo stato di cose presenti, ma anche le paure che ne derivano, specificamente poi in un periodo come questo che ha messo in moto altri meccanismi di appunto sia di spavento sia di se non di terrore, paura o comunque ecco, col rischio di renderci incapaci di reagire alla situazione, sia come persone, sia come movimento, sia come diciamo classi subalterne e via dicendo. E, ecco, io ho sempre considerato, insomma, sono un compagno, potremmo dire, militante da tanti anni in varie parti del mondo, insomma mi è toccato vivere non poche situazioni di conflitto acceso e quindi anche di paura. Io ho sempre avuto paura, però vorrei sottolineare appunto la diversità della paura generata dalla situazione del Covid-19, del coronavirus, insomma della pandemia, perché ho sentito come che tocca altre corde. Generalmente di fronte, diciamo, alla brutalità del potere, per brutalità del potere intendo anche la brutalità delle mafie, gli orrori, l'orrore fascista, l'orrore paramilitare, ho sempre cercato di, insomma, è sempre stato un tipo di paura che evidentemente si dava in un certo posto del corpo o dell'anima, capace di essere canalizzata. E può sembrare banale quello che dico, però in realtà è la sensazione che forse fra tante compagne e compagni ci abbiamo quando per stare a carica le guardie, c'è un istinto di sopravvivenza, un desiderio di vendetta, un sentimento di rabbia e di ingiustizia che in qualche modo trasforma la paura di essere arrestati, a volte anche uccisi, dipende dal nemico che si ha di fronte, e una capacità d'azione, anche in adrenalina. Quindi proprio parlando dal punto di vista personale, senza voler fare assolutamente nessuna teoria su questo, semplicemente sono sempre stato abituato a trasformare, come se riuscisse a trasformare questo, la paura, diciamo questo nodo allo stomaco, quest'ansia che entra dentro di qualcosa di brutto che sta per accadere, in una forza, cioè, comunque in uno spazio, trasformare questo in un motore per poter reagire, e solito reagire anche velocemente. E devo dire che la situazione attuale, devo dire che rispetto a questo c'è stato solo un meccanismo che non arriva a paralizzarmi, che però è quando questa paura viene, c'è questo terrore a qualcosa di brutto che ci possa succedere, si espande alle persone più vicino. Io penso che là c'è questo punto in comune con quello che stiamo vivendo oggi. E io credo che almeno un paio, sono un paio di elementi che per me erano insondati di questo tipo di paura che mi spinge a vivere i tempi pandemici. Uno di questi è la paura di contagiare gli altri, cioè il dramma dell'untore. E, nel senso, non è tanto forse proprio per quel tipo di approccio che uno ha verso la vita, tra il fatalismo e una certa sconsideratezza eternamente giovanile, anche se il sottoscritto non è più tanto giovane, e di non pensare tanto a quel che ti possa succedere, all'elemento di rischio personale, quanto appunto diventare un fattore di contagio. E la paura e la responsabilità di divenire l'elemento con cui potresti infettare e quindi eventualmente uccidere, anche se le persone, soprattutto le persone anziane, le persone vulnerabili, gli amici e le amiche o i familiari con appunto un sistema immunologico non capace di resistere all'aggressività del virus. Questo mette noi in una posizione come essere costantemente sotto processo nelle azioni fatte. A volte è sufficiente uno sguardo, cioè, io almeno personalmente vivo un nuovo senso di colpa che non ha niente a che vedere con i sensi di colpa storici, quelli addirittura elaborati, quelli che fanno parte della sovrastruttura del potere, che servono per inibirci dall'agire. Non è manco il senso di colpa appunto cattolico, no? È proprio una cosa, dice, cazzo, però non ho fatto, guarda che cretino che sono, come mi sto comportando rispetto a questo, quando qualcuno te lo fa notare, sia per la situazione inedita, sia per la costante possibilità di essere noi veicolo di contagio. Per me questa è una cosa che mi mette, no, non so, è una paura strisciante, perché non è forte, non è la paura di un momento appunto adrenalinico, non è la paura di uno sparo, non è la paura di una zaccagnata, non è la paura del conflitto o del carcere. È qualcosa che si insinua negli atteggiamenti quotidiani, ripetuti, e che sembra, e che c'ha a che vedere pure con l'invisibilità. Quindi per me questo è nuovo. L'altra è in qualche modo, appunto, io questa la collego a volte, è un po' diversa, molto diversa da un altro tipo di paura che per me è abbastanza relativamente nuova, è sconvolgente, non paralizzante, perché mi impongo fortemente che non sia paralizzante, ma quella rispetto alla paura che possa succedere, di quel che possa succedere ai miei figli per conto delle azioni mie. Cioè la scelta di essere un militante, un compagno, una compagna in altri casi, esposto nelle lotte, ci sono certe parti del mondo può avere una ricaduta diretta e omicida, o diretta e violenta sui figli, e questo un potere fa una ricattabilità sull'amore paterno o materno rispetto ai figli, perché sa che è qualcosa che poi quando succede potrebbe essere paralizzante. Cioè, fa pesare le mie scelte anche di cambiare il mondo sul futuro e sull'integrità fisica dei miei figli è veramente, non so dirlo, però è un'altra delle mie paure, no? Un'altra di quelle cose che mi sconvolge. Questa è diversa, non ha questa portata così catastrofica in termini direttamente politici, ma ripeto appunto, ma comunque cioè il mio agire è normale, fra l'altro, neanche il mio agire militante, quindi si sveste addirittura di quell'eroismo romantico di cui in realtà non me ne frega niente, però che comunque c'ha la lotta, c'ha la narrazione della lotta, quell'impetu che dici: figlio mio, perdonami, papà l'ha dovuto fare perché era necessario cambiare il mondo. E qua non diciamo manco questa: madre, perdonami, padre, perdonami che mi sono scordata la mascherina o stretta la manana. Cioè, è diverso, no? Anche nell'autonarrazione, appunto, che noi facciamo per mitigare questa paura, non servono gli stessi discorsi, non servono. Questo lo dico per dire che ci sono altre paure realmente forti, ma che appunto rispetto a questa paura che vivo di far del male agli altri e alle altre, per il mio agire non posso usare lo stesso arsenale di autodifesa che uso rispetto appunto alle paure che dicevo che sono solito affrontare. E poi vabbè, c'è la paura, un altro tipo di paura, c'è il fatto che questa dittatura biopolitica che ci ha consegnati, cioè noi ci siamo consegnati quasi per essere incapaci di avere una risposta alternativa in tempi pandemici. Possiamo analizzare che sia stato il capitalismo e i dispositivi del biocontrollo messi in atto, possiamo leggere un sacco di saggi, di testi, lo facciamo, li analizziamo, facciamo analisi politica su questo, ma siamo realmente incapaci di avere un'alternativa, molto meno rispetto ad altri temi. Forse c'è un'incapacità generale nel movimento, soprattutto nell'Europa occidentale, di offrire alternative al disastro in corso, e vabbè, ne abbiamo parlato tante volte, ma se a questo disastro stesso in corso aggiungiamo appunto la situazione pandemica, o comunque la gestione biopolitica e la dittatura sanitaria che si instaura con il pretesto e a ragion del controllo del flusso del virus, cazzo, cioè non siamo assolutamente in grado di dare una risposta di questo tipo, mentre il potere ha rafforzato la sua narrazione proprio grazie a questo. Nel senso, è complicato, pure il potere lo dice, è complicato, ma se deve far così, c'è state, boom. E quindi a questa paura si aggiunge anche, appunto, diventa una paura paralizzante, cioè si aggiunge anche questa specie di impotenza di non saper come uscirne fuori, di non saper offrire alternativa, di veder perdere tutti i punti di riferimento rispetto a esco, non esco, dobbiamo mantenere la distanza, dobbiamo scendere in piazza, no, tocca farlo però a distanza, cioè dobbiamo riscrivere totalmente anche la nostra capacità di resistenza, e quindi cioè, la paura, questa sì politica, di dover sopportare questo stato di controllo, dittatura sanitaria per lunghi tempi, perché il potere non è scemo, ha capito che gli funziona. Per la prima volta nel mondo sono riusciti a disporre di milioni, quasi miliardi di persone e controllarle attraverso appunto dei meccanismi, dei dispositivi biopolitici, e questo ha aperto nuove porte di controllo, nuove forme di disciplinamento che verranno riutilizzate prossimamente, sempre con qualche protesto sanitario, ma che diventa quindi squisitamente politico. Quindi mi fa paura che il potere ha già trovato una nuova forma di controllo a cui noi ancora non sappiamo rispondere, e la paura di che la nostra risposta possa essere solo quella di in qualche modo continuare a mantenere viva la vita, perché è quello che amiamo, e non so, caricandoci la responsabilità di appunto di essere veicolo di contagio, di far del male o di far soffrire, di far ammalare le persone non più fisicamente in grado di reggere questa situazione o le prossime che verranno. Non lo so, mi sconcerta, è un dubbio lacerante quello che voglio dire. Non è la stessa tipo di paura dell'untore, la paura del contagio, la paura di essere un veicolo di una morte dolorosa per altri, ma comunque mi lascia così, molto più che interdetto, questo sì, quasi paralizzato, e non c'è cosa peggiore al mondo per me che sentirmi paralizzato di fronte al potere. Grazie compagne, grazie compagni, mando un abbraccio forte a tutte e tutti. E allora questo è il primo contributo, lo ripetiamo, abbiamo aperto i microfoni a tutte e tutti quanti, il tema è la paura, abbiamo iniziato noi qui in studio, questo era un contributo audio di chi non poteva farlo in diretta, abbiamo lo 06 49 1750. È sempre silenzio assordante sulle frequenze di Radio Onda Rossa e abbiamo una prima telefonata. Benvenuto. Ciao, ciao compagni e compagni, sono Aladin della biblioteca abusiva metropolitana a Centucelle BAM. Volevamo insomma lasciare pure noi un contributo di questa esperienza che abbiamo passato in questi mesi. Personalmente voglio partire dalla mia paura personale, veramente le canzoni che avete mandato di Tiziano Ferro, cioè, cosa la voglio dire? Ci scusiamo per il terrore. Vabbè, del resto non lo so, veramente pure noi abbiamo avuto un po' di preoccupazioni, paura anche di essere insomma difensore insomma di questa pandemia. All'inizio avevamo pensato tantissimo, moltissimo sul fatto di aprire o non aprire e che fare, poi abbiamo deciso di continuare la vita mantenendo la biblioteca insomma non diciamo chiusa, aperta, però non senza le attività che facevamo di solito, insomma i libri li davamo insomma fuori, abbiamo mantenuto la libreria sul marciapiede sempre piena di libri, abbiamo distribuito quasi più di 300 libri insomma gratis ovviamente, da 2 mesi insomma c'è il lavoro di disinfettazione di libri uno a uno, cioè ti immagini il lavoro di disinfettare più di 25.000 libri, quindi un lavoro che ancora non manco finito, quindi, da settimana ancora, quindi ufficialmente non siamo ancora aperti, però abbiamo cercato insomma di mantenere vita insomma la biblioteca, e per un mese circa abbiamo messo la musica per 2 ore fuori dalla sul marciapiede insomma, con richieste degli abitanti di alcune canzoni insomma particolari, e poi niente, giusto per non essere partecipi alla desertificazione che abbiamo vissuto in questi giorni insomma di angoscia. Noi ti sentiamo, tu ci senti? Sì, sì, io vi sento bene. Allora, c'avevo una domanda, insomma, un posto che fa attività in questo momento, come dicevi, l'ha dovuto sospendere, così come d'altronde un po' qualsiasi, cioè chiunque in questo paese responsabilmente, chi prima o chi dopo ha deciso di evitare iniziative culturali, di confronto, evitare anche una socialità insomma quotidiana che ci riguarda, insomma noi basiamo tutto sulle relazioni e come dire è stato difficile farne a meno. E mi chiedevo se in qualche modo questo fatto che comunque la biblioteca fosse aperta è stato un modo anche per confrontarsi con chi singolarmente magari è venuto a prendersi un libro per riuscire a ingannare il tempo, e se c'è stato restituito qualcosa di importante anche non dal nostro giro necessariamente. Guardi, è un po' con quel territorio diciamo che abbiamo avuto un avvicinamento in più, visto che era l'unica forma di vita insomma diciamo così, poi dirlo forma di vita insomma per questi giorni è veramente brutto, Però c'è stato insomma un incontro abbastanza interessante, abbastanza importante, insomma la gente apprezzava, che non so, una canzone di Gabriele Ferri, mettiamo così banalmente, apprezzava i libri che mettevamo fuori per la strada, nonostante che è una cosa che facciamo da anni. Sono delle forme piccole che adesso hanno avuto, che non so, un apprezzamento un po' di più insomma del solito. Ci siamo trovati insomma a dar vita al nostro malgrado una cosa che veramente era angosciosa insomma e poi era l'unico spazio, diciamo così, aperto per la zona, per i compagni che andavano da una parte all'altra, anche per incontrarci, per guardarci in faccia, a parlare insomma. Abbiamo ragionato tanto, abbiamo fatto un po' di volantini scritti e diffusi nel piccolo di quello che si poteva fare. È stata insomma una cosa abbastanza importante, esperienza molto, molto vissuta. Stiamo cercando insomma di essere partecipi in qualche modo tutta la situazione, responsabilmente ovviamente, perché la paura e la preoccupazione c'era. Non volevamo essere un focolaio in qualche modo e non cercavamo di fare assembramenti o magari, che non so, iniziative azzardate. In maniera responsabile siamo riusciti a rimanere in vita, dando insomma possibilità ad altri di incontrarci, di parlare. Senti, ma la paura c'è o c'era? Guarda, adesso non lo so se è passata veramente la paura, perché non mi pare che sia passata, ma c'era all'inizio, c'era molta confusione, c'era anche la paura, c'era la preoccupazione, non si sapeva si apriva o non si apriva, ci dispiaceva il fatto di essere chiusi in tutta la situazione che c'era insomma in giro, e quindi anche quando abbiamo aperto eravamo veramente preoccupati, ci avevamo anche paura sia dal controllo, perché non è che ci mancava il controllo, sono passati, però con la scusa del fatto che ci viviamo dentro l'occupazione, abbiamo detto noi ci viviamo qua. L'unica cosa che fuori dalla biblioteca c'è scritto una targa scritta biblioteca, e quindi abbiamo dovuto cancellarla, nasconderla, chiudere la serranda in modo in cui si copriva la parola biblioteca, se no non era, per legge non dovevamo essere aperti e identificati, ma senza niente di che. Del resto siamo rimasti sempre qua. Benissimo. La paura veramente non lo so se è finita, perché ovviamente tutti quanti ancora stiamo già aspettando, guardando, e vediamo com'è. Bene, noi ti ringraziamo per questo contributo. Ovviamente se volete seguire la discussione e richiamare, certo, per noi ben venga. Sì. Intanto un abbraccio forte, così a distanza, e speriamo a prestissimo. A presto, un abbraccio. Dai. E allora che vuoi fare? Perché noi abbiamo una telefonata in coda. Vuoi dire qualcosa? Così. Volevo fare, però non c'entra niente. Io intanto faccio la telefonata. Cioè, nel senso, volevo fare un coming out con Aladdin e dire che, rimettendo a posto caso, ho trovato un libro di BAM che ho in prestito dal 1912 probabilmente. Volevo chiedere umilmente perdono e lo restituirò presto. Ok, niente, questa radio permette tante cose. Allora, un po' di musica, tempo di contattare chi ci ha contattato. Un attimo di pazienza. Allora, bene, 16:40 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è silenzio assordante, microfoni aperti sulla paura. Sono già due i contributi che abbiamo avuto qui in diretta e siamo al telefono con un compagno, benvenuto, grazie per aver scelto di contribuire anche te. Ciao a tutti e a tutte, io vi sto parlando da una situazione particolare in cui la paura c'è stata tantissimo. Sto in un reparto di infezioni sistemiche dell'immunodepresso, che non sarei io, e niente, ci sono arrivato in un modo particolare soprattutto perché mi sono preoccupato di essere il veicolo di infezione o di contagio della comunità in cui stavo vivendo. È una piccola comunità in cui mi sono trasferito per vivere assieme alle persone care e quindi non subire quel fortissimo contagio di paura che c'è stato a marzo, quando è iniziata a circolare questa notizia di questo virus. E niente, appunto, i primi sintomi di un qualcosa che non andava bene, e ho iniziato ad avere un forte terrore che fossi l'anello debole che sta per procurare un grosso danno alla comunità in cui avevo scelto di andarmi a chiudere, quindi dove fare la quarantena, che è stata una scelta poi interessante perché abbiamo avuto modo di stare assieme, analizzare quello che stava succedendo, parlarci quotidianamente, confrontarci su le nostre paure, le ansie, le tensioni, il disagio, perché comunque organizzarsi e darsi un minimo pure di dignità in questa condizione è difficile, sia per tanti motivi, per chi fra noi ha perso automaticamente il lavoro e quindi mano a mano inizia ad avere sempre più ingenti problemi economici, a chi è in possibilità di movimento perché è rimasto bloccata in una regione che non è la sua, in una casa che non è la sua, e ad altri tipi di problemi che sono legati appunto alla reperibilità dei cibi, delle risorse, insomma gli spostamenti, a chi non ha una macchina, a chi può e non può spostarsi. E la paura quindi l'abbiamo vissuta, penso, a tanti livelli, su tanti aspetti, primi fra i quali la paura più grande che ho sentito anche io è stata quella di dover rinunciare alle persone care, a dover fare delle scelte per il quale ho dovuto escludere alcune persone, fra cui anche quelle della mia stessa famiglia, perché alcune persone sono meno giovani di me e quindi pensavo di potergli arrecare danno, ho cercato di tutelare loro ed altre che avevano altri tipi di necessità per il quale appunto c'è stava sempre il pericolo del contagio. E tutto questo poi è sfociato poi nella scorsa settimana, da quando ho avuto appunto questo sintomo che mi ha terrorizzato e mi sono dovuto anche infilare in questa incredibile avventura che fortunatamente arriva all'esodo a breve, perché è stato confermato che alla fine qualsiasi test è negativo, e mi sono infilato anche in questo tunnel del protocollo Covid, che è quello che avviene negli ospedali. In realtà per certi aspetti c'ero già entrato in contatto non direttamente, perché appunto alcune persone della mia famiglia hanno subito delle operazioni in questo periodo che proprio non ci voleva, era proprio il periodo peggiore, ma purtroppo le malattie non aspettano, e già avevo toccato un po' quale fosse la difficoltà di fronte a questo, a questa appunto inoculazione di paura più che altro, perché poi fra noi diciamo questo Covid l'hanno visto in poche persone e niente, quindi anche l'aspetto della vista da dentro gli ospedali e dei percorsi che vanno fatti per poter garantire di non essere infetti e quindi riprendere la libertà, perché di quello poi si tratta, perché sono stato privato della libertà a priori senza che neanche capissero che cosa avessi. La prima cosa è stata sottrarmi, sequestrarmi, anche non a ragione, visto che poi hanno sbagliato i test, hanno hanno fatto un sacco di errori e fortunatamente poi sono riuscito ad arrivare nelle mani giuste, in cui poi ho avuto tutta un'altra gestione di questo problema. Quindi la paura non è stata poca, in tanti livelli ti colpisce diversamente, perché ho avuto appunto prima paura di essere il ponte del contagio, poi rimpallava perché entro in una zona in cui ci sono i contagiati, quindi ho paura di contagiarmi, perché a un certo punto capisco di non essere contagiato, perché mi fa il primo tampone, mi fa il secondo, mi fa le altre analisi, e a un certo punto inizio a pensare: e allora se non siamo infetti, e allora se non sono infetto, che sto facendo qui, perché sto offrendo il mio corpo a questa possibilità? Però d'altronde volevo tornare nella mia comunità con la certezza che non stessi provocando un disastro che, per quanto piccolo, nella mia vita è enorme. E niente, poi ho visto pure un po' come funziona. Ho visto come funziona sia dall'interno che dall'esterno, come l'abbiamo visto tutto, di come appunto i giornali ci hanno inoculato questa paura terribile di vedere la gente, di stare insieme, di provare insieme a trovare delle soluzioni, perché tanto lo Stato, il governo, questa massa dei cialtroni che sta lì a ingozzarsi con le risorse che noi gli portiamo a duro prezzo, il nostro sangue, e questi non hanno fatto niente. Quindi la nostra comunità, in qualche modo, se avesse avuto un attimo la possibilità di confrontarsi e condividere le idee, tanti piccoli meccanismi di micro e macro resistenza sarebbero potuti mettere in atto. Invece anche fra di noi, le persone più attive che provano nel quotidiano a cambiare le cose, ci sono state delle paure forti, delle separazioni, delle accuse, della mancanza di fiducia, cioè questa paura che ci hanno iniettato ci stava anche devastando da dentro, una cosa che in tanti altri momenti, anche gravi, anche più violenti, non era mai successo. Anzi, in genere abbiamo trovato sempre il modo di fare resistenza insieme, invece in questo caso eravamo sparsi come delle macchiette, cercare appunto di stringerci era impossibile, vietato in qualche modo. E quindi niente, tornando invece all'interno, ti rendi conto che da dentro vedi che in effetti questi qui non ci sta una strategia per affrontare questa roba. Cioè, la strategia era: chiudiamo 6 miliardi di persone dentro casa. Cioè, l'hanno fatto nel piccolo qui nel nostro paese dei incompetenti, l'hanno fatto su larga scala su tutto il pianeta, cioè per la prima volta. Cioè, l'ultima volta che succedevano queste cose qua era quando c'era la guerra fredda, che per questo allarme del nucleare la gente si comprava i bunker e si andava a nascondere, e lì forse c'è stava pure la possibilità. E qui ci hanno mandato questa paura in giro, non è che, come dicevate prima, no? Abbiamo visto l'esercito portare via le bare, cioè tutta una serie di meccanismi che sono forti, che comunque te minano la tranquillità, non te fanno fare i passi saldi, e quindi cioè, rimetti in gioco tutte altre cose. Insomma, anche da dentro non è che appunto sanno bene quello che sta succedendo. Chi lo sa fa fatica a lavorare, perché ci sono tutti gli altri che questo meccanismo non perdono occasione poi di mangiarci, di mangiare sulle nostre paure, sulle nostre vite, sulla nostra salute, di prendere i soldi a destra a manca, dei finanziamenti che sono stati tirati fuori, che invece di usarli per queste persone che stanno male, stanno morendo, li usano sempre per i loro interessi, perché qui tanto l'unica cosa che deve continuare a vivere è il capitale. Cioè, non è che gliene frega niente delle persone che stanno a soffrire, che quelle anche come me sono da giorni dentro un reparto in isolamento, dove la gente mi parla attraverso i vetri, una cosa di quelle che o ne hai sentito narrare quando passano il 41 bis, oppure quando vedi quei film di fantascienza dei supereroi chiusi dentro le gabbie di cristallo e queste cose qui, insomma. Cioè, non so cose a cui siamo pronti, pronte a reagire. A me fa piacere che invece questa una piccole forme di resistenza ci sono state, appunto come vi narravo, cioè anche l'essersi confrontati, andare a studiare un attimo cos'era questo virus, come si può fare nelle piccole e grandi comunità per sostenersi. Abbiamo cercato di leggere opuscoli, comunicati che arrivavano da altre parti, da altri compagni e compagne che hanno affrontato il tema della salute, che loro in posti dove ci sono conflitti più alti esistono case della salute o esistono dei posti dove ci si confronta e si cerca di fare la cosa migliore per prendersi cura della propria gente, della propria comunità, quella più piccola e quella allargata. Io penso che quello sia la cosa che anche dalla comunità dove venivo io è stata la cosa che ci ha salvato un po', perché nonostante pure noi abbiamo avuto paure dettate soprattutto dall'ignoranza, no? Perché poi è giusto avere paura perché ci mette in allarme tutti i sistemi di autodifesa, ma poi è pure giusto capire dove sta questa paura, cioè perché spesso viene da quello che non conosciamo. Spesso è pure facile comprendere che certe cose poi te le impari e non c'è più paura, cioè basta appunto mettersi in discussione, confrontarsi e capire che certe cose sono molto semplici di come le immaginavamo, di come la testa in quel momento le rendeva impossibili. Si può fare di attivare un sacco di cose come hanno fatto a BAM, di distribuire dei libri, cercare di starci senza poi crearsi dei problemi a vicenda, perché appunto in tutto questo c'è stata la gestione delle forze dell'ordine, dei militari, della forza bruta, perché certo già c'è un problema di pandemia globale e ci metti la forza bruta, perché qui appunto l'infezione della paura è sicura col controllo, no? Lo diciamo tanti e tanti anni fa, lo diciamo un po' come slogan, ma in questi giorni noi l'abbiamo sentito sulla nostra pelle, c'è chi con questo c'è morto per questo ragionamento. Non ci hanno dato poi nessun tipo di strumento, ci hanno chiuso dentro casa, quindi è che ci stanno effettivamente degli strumenti. Anche adesso che ci sta questa riapertura, che si può tornare in giro, l'hanno fatto in fretta e in furia perché c'è l'esigenza di riattivare l'economia, che nel frattempo ha già determinato un sacco di contagi, tanto che quei poracci e quelle poracce che sono dovuti continuare ad andare a lavorare nei posti che sono già terribili da loro quando non ci stanno le pandemie, tipo le fabbriche e questi posti dove c'è stata la produzione di massa. Invece forse se avessimo avuto la capacità di confrontarci e prendere questa occasione che c'è stata del fermare tutto, avremmo dovuto forse incrociare tutti e tutte le braccia e fargli vedere che fermiamo tutto, cioè se ci volete chiudere tutti a casa, fermiamo tutto quanto e vediamo poi che succede, perché tanto qui se noi ci fermiamo il capitale non mangia, però questa è una paura che ci hanno messo, no? Che se poi ti fermi e come facciamo, eccetera. E forse io penso, ecco, la rabbia che viene da questa reclusione così per fortuna temporanea che mi sto vivendo, mi fa pensare proprio quello, cioè forse la risposta era proprio approfittare, ok, fermiamo tutto, perché tanto il modo di ripartire le piccole comunità ce l'hanno, e se ce l'hanno quelle piccole ce l'hanno pure quelle grandi, cioè bisogna avere pure fiducia, non bisogna basarsi soltanto sulle paure. Certo, io guarda, dico due cose. Intanto non so come ringraziarti, perché cioè in un momento pure estrema emotività, ma anche come dire sei abbastanza disarmato lì, hai scelto di contribuire con questa forza, grazie. Aspetta, se vuoi lo puoi dire pure te. Grazie. Grazie a voi. E allora hai aperto tante questioni e sicuramente quest'ultima riguarda anche la paura di perdere il lavoro, che è una questione che purtroppo sta riguardando tantissime persone in questo paese. Ora mi interessava un attimo se ti va ancora di parlare, poi se non ti va ci chiudiamo, però insomma facevi accenno alla collettività in cui hai vissuto in questi due mesi e mezzo, è una collettività, no non tossire, è una collettività che quantomeno un po' ha spostato fuori da sé quella che era la preoccupazione. Quindi si è seguita le proteste delle persone in carcere, ha provato a attivare strumenti di comunicazione con il quartiere dove viveva per capire quali erano le esigenze e anche i problemi di un quartiere. Mi chiedevo un attimo, siccome probabilmente la questione centrale di una collettività un pochino numerosa in questi tempi è stata quella del consenso, cioè nel senso, capiamoci ognuno individualmente come si sta comportando, modifichiamolo se non sta bene a tutti, però il non detto, come dire, era la cosa più problematica. E molto spesso si perde di vista il discorso interno quando si guarda tanto all'esterno. Quali sono i meccanismi che sono stati generati in questo tempo? Allora, principalmente, appunto, partendo dal presupposto che la cosa bella che c'è stata in questa comunità, dove in genere siamo abituati a confrontarci una volta a settimana attraverso lo strumento assembleare, dove appunto poi ci lasciamo l'intera settimana per ragionare o meno sulle cose che ci siamo detti e metterle in atto, e in questo contesto ci siamo visti e viste tutti i giorni, mangiando insieme, cercando di fare le cose insieme, che è stata una cosa molto forte, che ci ha dato, penso, tanto coraggio. E abbiamo stabilito tutta una forma pure di regole di ingaggio, abbiamo ragionato su come fare, se restare in una comunità chiusa, se provare a includere altre persone che vivano la nostra stessa situazione, e come interagire anche con le persone del quartiere che abbiamo intorno. Infatti per quello abbiamo attivato, ci è venuta spontanea l'idea di attivare una radio in streaming, diciamo di quartiere, no? Perché parlasse un po' di più delle condizioni locali, e che non è che affrontasse i massimi sistemi, ma partisse proprio dalle cose tra terra, perché poi appunto, come per noi è servito confrontarci, farci due chiacchiere, due risate, sentirsi la musica e mangiare insieme, abbiamo pensato che questo fosse fondamentale anche le persone vicine. Anzi, la cosa è partita iniziando a sentire la musica in quegli assurdi pomeriggi dove sparavano l'inno d'Italia dalle finestre. Noi abbiamo sparato la musica che ci piace di più, e vedendo il feedback, c'è la gente che dalle finestre si è messa a ballare, ci ha chiesto di continuare, ci ha chiesto di metterne di più, d'anno avanti, e di farlo tutti i giorni, eccetera. Fin quando poi qualcuno si è lamentato, delle persone, diciamo, un po' meno giovani, che hanno detto che insomma la musica a palla poteva essere anche fastidiosa. Allora abbiamo trasformato questo in una radio in streaming, che abbiamo usato un po' come strumento per capire qual era pure la tensione del quartiere intorno a noi, che è uno dei grandi quartieri un po' dormitori, un po' abbandonati di questa assurda metropoli. E abbiamo attivato quindi pure delle forme di micro scambio con queste persone, da quelle che erano soltanto hanno partecipato per pura per il divertimento, insomma, per sentire un po' di musica, per dirci un po', per divertirci un pochino assieme, dirci un po' di cavolate assieme, a chi ha provato a mandare anche dei messaggi utili, cioè a chi ha fatto la richiesta per dei computer per i bambini e gli adolescenti che dovevano seguire i corsi, quindi diciamo queste piccole forme di mutuo appoggio, no? E a chi invece si è offerto gratuitamente per dare supporto psicologico a chi ne poteva aver bisogno in questo appunto periodo in cui abbiamo in tanti perso il lavoro, in altri si bloccati dentro casa, che diciamo i primi 2-3 giorni possono pure essere divertenti, quando inizia a passare un po' di tempo la gente scapoccia, l'abbiamo visto, perché poi non è che siano cambiate le dinamiche che ci stanno sempre durante il resto della fra virgolette normalità, ma in questa situazione le persone che si sentivano tutelate di stare dentro casa invece hanno dovuto convivere forzatamente con loro paguzzini, e chi invece si è creato delle prigioni dentro casa, quindi c'è stato c'è pure tanto malessere con cui confrontarsi, e quindi c'è stato pure chi ha offerto questa possibilità. Abbiamo cercato di diffondere appunto tutti questi messaggi di come piacerebbe poi stare insieme. Ne abbiamo insistito poi appunto con questa radio in questa direzione qui, ha portato pure alla creazione di un qualcosa di più grande, che è molto carino, vediamo se crescerà. C'è una rete fra varie radio che hanno provato a fare la stessa cosa nei quartieri di Roma, e L'altra cosa poi che abbiamo fatto invece nella parte più local, ovvero dall'interno dello spazio dove vive questa nostra piccola comunità, abbiamo cercato di capire come dividere gli spazi. Abbiamo una parte dove viviamo, dove proprio abbiamo le stanze, una parte dove ci sono gli ospiti, più o meno chiamiamo la foresteria, c'è una parte che era dove sono i laboratori, la palestra, lo spazio praticamente sociale. E abbiamo cercato pure di dargli una destinazione d'uso differente, ovvero cioè, da una parte cerchiamo di accogliere persone di cui non ci fidiamo che non ci fidiamo noi di veicolargli qualcosa, quindi uno spazio, diciamo, cuscinetto, no? Dove invitarle, farci due chiacchiere, però senza stare troppo a contatto, anche all'aria aperta, volendo, visto che abbiamo un bel terrazzo. E quindi no, ci siamo posti il problema, perché all'inizio sembrava tutto un po' pauroso e impossibile, poi piano piano, mano a mano che le nozioni sulle possibilità dello stare insieme anche con questo virus, in realtà ce ne sono tantissime, basta conoscere le precauzioni, perché alla fine alcuni di noi vengono dagli anni 80 in cui di virus ce ne sono stati dei ben peggiori, di cui portiamo ancora oggi lo stigma, quindi fondamentalmente questa è una febbre, cioè qui abbiamo fatto tutto sto casino per una febbre, con il quale bastava dare delle indicazioni chiare e precise e non il terrore. E allora quindi noi abbiamo continuato a riaprire un po' in sordina, cioè così, per chi è passato, non è che abbiamo preso le persone dalla strada, insomma, però cioè, i nostri spazi sono stati aperti e un pochino attraversati da chi ha voluto venire a vedere come ce la stavamo facendo, perché poi di quello si tratta, no? Invece di star lì e sbroccare, chiusi dentro casa ad avere paura, noi ce la stavamo a fare. Ce la stiamo ancora oggi facendo, io un po' di meno, ma tornerò presto. E io penso che quello sia stato questa cosa che abbiamo sperimentato è forte, perché appunto in così poco tempo siamo riusciti a trasformare quella che era soltanto un'idea di una possibilità in qualcosa di reale. Cioè, noi siamo stati appunto insieme 2 mesi cercando di non farci mancare niente e cercando di aiutare le persone pure in altri momenti che non fossero specificatamente i nostri, perché siamo scesi a controllare per strada quando è che ci stavano le consegne di pacchi viveri da parte dell'Indivisa, da parte di altre associazioni del quartiere. Abbiamo visto chi è appunto chi si è fatto bello con queste cose, chi invece l'ha fatto decore, e abbiamo pure riscoperto delle solidarietà improbabili, delle complicità incredibili, perché non te le aspetti, che poi con certe persone che cui magari ci hai litigato fino al giorno prima ti rendi conto che sono state le persone più affidabili e sincere, mentre ego altre invece ti rendi conto che non ce vai fa niente, perché poi sono persone che si portano solo l'acqua al proprio mulino. È stato quindi interessante mettere alla prova le nostre capacità e le nostre potenzialità, e secondo me poi fra l'altro è una cosa che si può fare anche su una scala più ampia, nel senso se è semplice farlo su una scala più ampia, perché se ognuno lo facesse nel proprio piccolo, no? Piano piano si creano delle zone de possibilità. Allora, noi da qua ti ringraziamo tantissimissimo. Se vuoi aggiungere qualcosa in spazio, se no, cioè qua non lo so, non vediamo l'ora di vederti fuori lì. Guarda, io se vista la condizione, se mi lasciate spazio, io continuo a parlare fino a quando non mi libera, quindi mi fa piacere invece anche a me ascoltare quello che stavate dicendo, che purtroppo finché sto al telefono non vi posso ascoltare. Certo. E niente, vorrei lasciare sì appunto lo spazio anche agli altri e alle altre. Io vi ringrazio tantissimo, vi voglio un sacco bene e ci vediamo prestissimo. Mannaggia a te, ti vogliamo bene. Dai forte. Ciao. Ciao. Ciao. E allora, non so, tu vuoi intervenire in qualche modo? Io devo richiamare chi ci ha chiamato. Tu non ora. Musica? Musica. Dai. Allora, innanzitutto, per capire, c'è un numero di telefono 06491750, tra l'altro noi siamo disponibili anche a sforare nel tempo, non è siamo ci stiamo allungando, va bene, e forza, chiamate, intervenite. Your dream will get you a Porsche. Who says that life is not end? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will... 17:06 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, microfoni aperti sulla paura, diversi contributi che stiamo ricevendo e purtroppo abbiamo un'altra persona in linea. Ciao. Oh no. Grazie della presentazione. No, devo dire che, cioè, nel senso, quando non ci sono io le cose vanno meglio, quindi a gonfia vele. Credo di non venire più, cioè avete sempre le idee migliori, fate le cose migliori, quindi non no, diremo di no. È un segnale chiaro questo, mi sembra evidente, io ho chiamato solo per dire questo praticamente. Così volevo fare questo dare questo contributo. No, volevo, in realtà volevo, mi è piaciuta molto l'idea, quindi volevo dare anche il mio contributo, so che lo aspettavate con ansia e con ci manchi. Immagino, non ci vediamo da così tanti giorni che immagino che vi manco. No, io volevo intanto, a parte gli scherzi, diciamo, davvero grazie, perché è interessante questa cosa, proprio perché insomma dà la possibilità un sacco, cioè a tutti e tutti noi pure, di metterci un po' a nudo rispetto a delle questioni che uno affronta così, quindi insomma davvero una buona idea. E mi volevo ricollegare a un po' di ragionamenti che insomma sono state tirate fuori tantissime cose nei vari interventi, e soprattutto mi volevo ricollegare alla cosa che diceva la nostra conduttrice preferita all'inizio, cioè che insomma la paura alla fine è il sentimento che ha indirizzato un po' tutte le scelte che abbiamo fatto in questo periodo particolare. In realtà è un sentimento che, diciamo, ci guida molto in particolare, e lo volevo collegare un po' al concetto che gli fa un po' da contraltare, che è quello di sicurezza, no? Che poi è un tema che noi lì in trasmissione trattiamo sempre in maniera giustamente critica, che poi alla fine la paura è un po' sta un po' agli antipodi della sicurezza. Uno ha paura proprio quando si trova in una situazione in cui non si trova in una situazione di sicurezza. La cosa interessante di questo periodo qui, lo spiegava bene pure il compagno che ha parlato prima di me, è che, e come avete detto pure voi, è che diciamo c'è stato un periodo in cui praticamente il terrore è quello che, cioè proprio il sentimento di terrore e paura è quello che diciamo ci hanno instillato più di tutti, per cui il lockdown è stato praticamente giustificato più da questo che da spiegazioni reali e concrete di che cos'era questo virus, che insomma ci siamo dovuti impegnare anche grazie, devo dire, alla radio e a tanti strumenti di controinformazione che mai come in questo periodo sono stati veramente fondamentali. Ci siamo dovuti impegnare da soli per farci strada tra le notizie che arrivavano, si smentivano, e quindi fondamentalmente la paura viene anche dallo sconosciuto, quindi questa roba che non si capiva, questo virus che non si capiva che cos'era, una situazione completamente nuova, il fatto di come comunità, anche che non si è riuscita diciamo chi si è riuscito a vedere, chi no, senza entrare nel merito di questo, però che come comunità, e parlo veramente della radio, dello strumento della radio, comunque è riuscita a trasmettere in qualche modo, chi da casa, chi andando lì con tutte le precauzioni eccetera eccetera, e comunque a dare noi le informazioni, a cercare di capire noi cosa ci stava succedendo intorno. Penso che questo è stato uno degli, almeno per quanto mi riguarda, per me è stata una delle cose che mi ha cioè che mi è piaciuta di più e che mi ha anche tranquillizzato di più in questo stato appunto di terrore totale. E poi appunto l'assurdità della gestione dei tempi, cioè del cambio totale. Ora io non so adesso quanto non posso dire quanto le persone abbiano più o meno paura rispetto a quando c'era il lockdown. Sicuramente fa strano vedere che in base a delle disposizioni governative, che come siamo riusciti a capire in questi due mesi di delirio totale, cioè non erano proprio totalmente chiare e totalmente lineari, e il giorno prima accettavamo senza problemi proprio per la paura di essere contagiati, di contagiare, di rimanere chiusi in casa, e il giorno dopo, cioè quando il governo dà la disposizione che si può uscire, più o meno si è visto insomma per strada la gente che diciamo questa paura sicuramente ce l'ha avuta un po' di meno, se no non sarebbe uscita di casa. Quindi chiudo diciamo con questa cosa, cioè la cosa importante, almeno la cosa che credo di aver imparato io insieme a insomma alla comunità con cui ho cercato di organizzarmi in questo periodo difficile, è che questi sentimenti qua veramente importanti, la paura, il calcolo del rischio, tutte queste cose qua sono questioni che non dobbiamo impegnarci in tutti i modi a non farcele imporre dall'alto, né da un decreto, né da una legge, né da un neanche in maniera diciamo totalizzante da quella che viene definita scienza o comunque la medicina eccetera. Tu prima parlavi di consenso, sono uscite tante cose, dico è la cosa più importante davvero, è cercare di queste cose di gestircele all'interno delle comunità che creiamo, con responsabilità, con la testa, col cuore, perché solo mettendo tutti questi elementi insieme si possono affrontare le situazioni, anche quelle problematiche come queste. Se non facciamo questo sforzo diventa veramente complicato. Chiudo con un cenno inevitabile che devo fare, perché ne abbiamo parlato per mesi e mesi, che ancora una volta, come forse diverse volte nella storia succede, il messaggio forse quello più forte rispetto a questa questione della paura è venuto proprio dalle carceri, dove quando è scoppiato diciamo la questione Covid-19 e le persone probabilmente mosse anche dalla paura di ammalarsi, mosse dalla paura di stare male, di essere contagiate, si sono mosse immediatamente, e lo abbiamo raccontato insomma abbastanza bene credo in che modo si sono mosse, e soprattutto veramente il coraggio, che appunto anche questo fa da contraltare un po' la paura delle persone, dei familiari, dei solidali, degli amici, di chi ha le persone in carcere, che comunque hanno fatto, almeno a me per quanto riguarda, mi hanno fatto veramente capire che alla fine poteva anche non essere solo la paura il sentimento a guidarci in questa situazione qua. Quindi niente, volevo dare questo piccolo contributo, vi volevo ringraziare a voi per la fantastica conduzione sempre e la musica speciale che mettete. Che banalità. Vi saluto e vi abbraccio, e tanto immagino che vi vedremo presto. Va bene, ok. Va bene. Grazie mille, grazie nonostante mille, te. Tutto ricambiato. Va bene, grazie. È bello essere, come si dice, essere così apprezzati. Apprezzatissimi. ciao, presto. Dai, un abbraccione, ciao. Ciao. Sta roba degli abbraccioni, la gente non si regola. Allora, fuori luogo, sono come le pubblicità in cui ancora fanno vedere gente che va alle feste, no? Cioè, ma boh, come viene in mente? Allora, musica? Musica. Ok. We'll be right back. how I get away with everything? I work all the fucking time. From Monday to Friday, Friday to Sunday. I love it. I work. So when I say come on, I mean come on. You've got to work with me. Nah, I don't wanna see any fake ass workers. I need real builders. I wanna smell you. I wanna smell you even from far away. I wanna smell you. I wanna feel you. So I can know if you're a winner, baby. Diciassette minuti primi di questo venerdì 22 di maggio, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, microfoni aperti sulla paura. Abbiamo una telefonata, benvenuta. Ciao, ciao, ciao, ciao, senti, molto è stato detto prima, per cui in realtà mi erano venute delle suggestioni, ma non voglio ricalcare degli interventi opportuni. E una cosa, intanto sì, apprezzo moltissimo questa appunto trasmissione microfoni aperti che parli della paura, perché sembra invece molto spesso che sia diciamo esplicitare, parlare di questo sentimento sia un po' un tabù, no? E un po' una sorta di atteggiamento, non so, da coattanza, per cui chi ha paura, insomma, è un diciamo chi dichiara di aver paura non è molto apprezzato. E invece ritengo che noi siamo molto duri e puri, esatto, quindi non ne parliamo noi. Bravissima, bravissima. E ti sentiamo più, va e viene la linea, Un po' di aggettivi. Ehi, ascolta un attimo, va e viene la linea, Ehi. Allora, forse riproviamo a contattarti, perché sei forse in una grotta. Devi metterti dove prende il telefono, perché non prende. Diciamo la vita pone, e quindi sia diciamo affrontare momenti di lotta, e come appunto affrontare quelli che sono ragionamenti sulla in fondo precarietà della vita, no? Sulle possibilità di ammalarsi, di morire, eccetera. È importante perché al di là chiaramente da quelle situazioni che accadono improvvisamente, inaspettate, ti può dare degli strumenti per diciamo muoverti in maniera appunto più sicura, e quindi di darti quella forza che serve per affrontare la paura. Come diceva l'intervento iniziale, una delle, diciamo, invece la paura può essere affrontata anche attraverso diciamo altri sentimenti, che possono essere la rabbia, no? Però sicuramente un altro aspetto per quanto riguarda, che ne so, l'affrontare appunto questo sentimento che scaturisce, che ne so, dal timore di fare un'azione, di fare una lotta, di essere arrestato, quelle che sono le conseguenze, è proprio la forte convinzione. Nel senso che appunto se uno oltre alla rabbia prova anche quel ragionamento che ti induce a combattere tutto ciò che è aberrante di questa società, che è ingiusto, che è anche assassino, no? E mi rifaccio anche a quello, all'intervento del compagno della redazione, che evidentemente con voi non è, no? Dove appunto è stata dimostrata dai parenti, no? Magari dalle persone detenute, quello che è venuto fuori, è venuta fuori una reazione data proprio dalla paura e dal fatto di essere bombardati da un punto di vista mediatico di quello che accadeva fuori, quali erano le misure prese fuori, e poi sentirsi invece carne da macello dentro, perché tutte quelle misure che venivano raccontate come salvifiche, che erano gli uniche misure da adottare per evitare di finire in uno di quei carri militari, all'interno del carcere non sono assolutamente state prese in considerazione, oltre al fatto che non è assolutamente stata presa in considerazione forma che si chiama informazione, no? Che appunto ti dà degli strumenti in grado di affrontare la paura cercando di razionalizzarla. Quindi, diciamo, all'interno delle galere quello che è avvenuto è sicuramente un'espressione rabbiosa e di come dire, affermazione di dignità, cioè trattateci al pari di come trattate tutte le persone, di quello che state dicendo, insomma, coerentemente con quello che state dicendo. Invece fuori sicuramente c'è stata la paura del proprio caro contagiato, però c'è stata anche una determinazione dovuta anche appunto non solo al sentimento ma anche a un ragionamento, altrimenti le cose non si sarebbero portate avanti per così tanto tempo, insomma ci sarebbe stata probabilmente questa infiammata e poi sarebbe finito. E un altro discorso che mi viene da fare è che la paura oggi di questo, diciamo, di questa epidemia è probabilmente sentita in modo diverso a secondo anche lì di dove vivi, di dove sei nato, di quello che è la cultura in cui sei inserito, no? L'humus culturale in cui sei inserito, perché insomma ci sono popolazioni che hanno a che fare con malattie, con povertà, con livello di salute generale che non permette affatto di affrontare in maniera forte, fisicamente forte, le malattie che avvengono, no? Che magari sono davvero per noi sono un nulla, invece parlo del Covid, parlo di altre malattie, noi le superiamo così, invece magari in altri posti dove sicuramente i fisici sono più debilitati sono causa di mortalità, così come in altri posti ci sono lotte molto attive in cui quotidianamente si rischia la propria vita, no? Noi siamo in questa bolla nello stomaco di questo occidente in cui effettivamente i livelli, la qualità di vita che viviamo fa sì che noi non queste cose non le abbiamo mai affrontate, no? Per cui come c'è qualcosa che viene anche molto appunto pompata, trasmessa più volte eccetera eccetera, è chiaro che si entri nel panico, no? Perché proprio non hai l'abitudine ad affrontare delle cose. Come diceva prima il compagno, poi va a vedere, perché sembra tutto abbastanza, diciamo, una suggestione di massa in qualche modo, no? Perché se poi la paura era così tanto forte da tenerti a casa, da guardare a chi usciva come l'untore, da inveirli contro, poi appunto c'è un DPCM che ti dice, c'è un decreto che ti dice chiaramente stiamo riaprendo per una questione economica e nient'altro, continuate a mantenere distanze, state attenti eccetera eccetera, e poi invece c'è un'esplosione di vita, non si capisce quanto sia la paura della malattia quanto sia invece la paura dell'autorità e delle conseguenze che non rispettare quell'autorità ti porta, oppure troppo, diciamo così, abituati alla rimozione delle cose, che magari basta veramente 2 o 3 giorni e vedere che tutti quanti riprendono a vivere per farti, diciamo, dimenticare tutti gli eventuali ragionamenti che ti sei fatto prima, oppure i sentimenti che hai provato prima, appunto, di paura. Beh, io una paura ho, è che tutto questo periodo non sia servito a un cazzo, cioè che appunto che quelle forme anche così di resistenza comunitarie che ci sono state non siano evidentemente state un esempio che secondo me è validissimo, ma anzi probabilmente rimane invece ancora lo scetticismo e anche diciamo l'additare quelle forme comunitarie, perché la forma comunitaria in questa società intesa solo ed esclusivamente se hai una famiglia, se hai dei rapporti familiari, no? Vedi per esempio andare a trovare a un certo punto il tuo affetto, la fidanzata, il fidanzato, ma se è un rapporto stabile, no? Oppure potete uscire dal comune se andate a trovare i vostri parenti, per cui proprio a mio avviso è stato uno di quei decreti in cui ciò che emergeva era veramente, oltre al senso di unità popolare, quindi patria, Dio e famiglia, no? Invece, diciamo, ognuno, penso, di noi ha la capacità di scegliersi qual è il proprio riferimento e con loro, come dicevate prima, anche se non sono familiari, con loro stabilire, diciamo, delle regole comportamentali, delle modalità comportamentali che mettono in salvaguardia tutti quanti. E invece appunto a questo dal punto di vista economico non ne parliamo, qual è diciamo la non reazione che ad oggi si sta vedendo, qua si sta tutti testa bassa. Io ho visto l'altro giorno delle immagini di persone che per andare a lavorare si mettono in fila alla metro alle 3 di notte quando devono arrivare a lavorare alle 6, questo è chiaro, è legato ovviamente a un'esigenza, no? Economica e quotidiana, però evidentemente diciamo stiamo a un punto in cui le emozioni che più prevalgono sono la paura, invece la rabbia, la riappropriazione della dignità, i ragionamenti che ci sono stati del perché le persone sono morte, del perché questo virus gira, sono completamente cancellate, non solo perché sono ritenute fake news e quindi cancellate dalla task force, ma proprio perché ho paura che non sia in grado di recepirle. Questo così. Pronto? Sì, ci sei. Okay. Ci sei. Okay. Stranamente siamo riusciti anche a sentirti, perché la prima parte invece andavi e venivi, ma eri inarrestabile. Abbiamo provato a interromperti, ma niente. Non sentivo niente, sentivo come un eco. Ah, ok. Ovviamente, okay. Sì, scusatemi allora. No, non ti preoccupare, grazie mille, grazie mille. E dai. Chiudiamo un abbraccio fisico. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.